e l'acqua è piatta come un towel. E al marinare il galla faccia di un serpente. E un tatuaggio per chi l'anima che vende. La stivale è piena di sciate e scorbat. E quando è il temporal i balen come bat. Serra.